Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Verdini si dimette dal credito cooperativo, su di me una tempesta mediatica, scrive oggi l'interrogatorio. Concussione e corruzione, arrestati a Roma un giudice, due avvocati e un imprenditore edile. Islanda, il primo paese al mondo senza alcun bavaglio sul web, blogger protetti dai processi. Balotelli al City, il suo agente fa sapere, ancora nessuna firma. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In primo piano l'inchiesta sulla cosiddetta P3. Oggi l'interrogatorio del coordinatore del PDL Denis Verdini. Ci colleghiamo con Roma e con il nostro Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, si dovrebbe tenere a Piazzale Clodio, ma data la riservatezza del caso non è esclusa un'altra sede. L'interrogatorio di Verdini, saranno il procuratore aggiunto Capaldo e PM Sabelli ad incontrare il politico. Verdini, lo ricordiamo, è indagato assieme a Dell'Utri, Flavio Carboni e Massimo Lombardi per violazione della legge sulla costituzione di società segrete nell'ambito dell'inchiesta sulla P3. Inchiesta questa che si sovrappone a quella sugli appalti per l'eolico e che vede coinvolto anche qui Verdini. L'onorevole ha rassegnato intanto le sue dimissioni irrevocabili da presidente del credito cooperativo fiorentino e da componente del consiglio di amministrazione. In questi mesi, spiega Verdini in una nota, si è abbattuta sulla mia persona e indirettamente sul credito cooperativo una tempesta mediatica e giudiziaria di ampie proporzioni, rese certamente più eclatanti dal ruolo politico che rivesto. Sono assolutamente certo di poter dimostrare, e lo farò nelle sedi opportune, dice ancora Verdini, la mia estraneità da ogni illecito che mi viene in questa fase addebitato. Da riportare il commento del ministro La Russa, altro coordinatore del Popolo della Libertà. Verdini, ha detto La Russa, mi ha dato la sua parola d'onore di non aver mai svolto attività contro la legge. Verdini deve dimettersi da coordinatore, dice invece il finiano Bocchino. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Appalti del Ministero della Difesa poco chiari, è partita da lì l'inchiesta di Perugia. Arrestati a Roma un giudice, due avvocati e un imprenditore. Maxi arresto nelle ultime ore per i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Perugia. Sono finiti in manette il giudice onorario della quarta sezione bis civile del Tribunale di Roma Giovanni Dione Salvi, l'imprenditore in pensione Giampaolo Mascia con la moglie Piera Balconi e i loro due figli, gli avvocati Vittorio e Gianmarco. L'accusa per loro, contestata a vario titolo, è di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Secondo gli inquirenti, la famiglia dell'imprenditore Mascia avrebbe promesso e fornito utili al giudice Dione Salvi per non eseguire o inviare alcune esecuzioni immobiliari. L'inchiesta, trasferita per competenza da Roma al capoluogo umbro, è stata avviata da una denuncia dell'Avvocatura Generale dello Stato per far luce su appalti concessi dal Ministero della Difesa alla ditta dell'imprenditore Mascia. Micol Pieretti, GR24, Il Sole 24 Ore, Perugia. Linea dura del procuratore di Milano Ilda Boccassini. In cella anche una vittima dell'usura, Raffaella Calandra. Milano come Reggio Calabria, stessa usura e stesso silenzio, ma ora vogliamo rendere non più conveniente accettare le regole della malavita. Negli ambienti investigativi è questo l'auspicio che circola dopo il primo arresto in assoluto di una vittima di usura per aver coperto chi lo taglieggiava. Una sfilza di bugie, secondo gli inquirenti, sarebbero state quelle inanellate dall'imprenditore calabrese durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Gennari, che ha bollato come inaccettabile quel comportamento, a meno, si legge nell'ordinanza, di non considerare il territorio lombardo in balia della criminalità. E se dalla Calabria alla Sicilia diverse erano state già le condanne per uomini d'affari omertosi, questo primo arresto è ispirato al principio, come dicevamo, di rendere non conveniente sottostare al racket o all'usura, come sancito già dal pacchetto sicurezza, una linea dura che in un territorio economicamente nevralgico come la Lombardia potrebbe ancora far invertire la rotta. Questo almeno l'auspicio degli inquirenti. Ed è tutto. Grazie Raffaella Calandra. Villa Certosa ampliata. Tutto regolare? Sentiamo. La notizia era trapelata già qualche settimana fa, ma oggi sui giornali spopolano le ricostruzioni più diverse sui lavori avviati a Villa Certosa da Silvio Berlusconi sfruttando il piano casa. Vediamo allora in base a quali leggi il Presidente del Consiglio ha potuto procedere. In pratica, la Commissione Paesaggistica Regionale, presieduta dallo scultore sardo Pinuccio Sciola, ha dato via libera all'istanza di ampliamento della volumetria della villa, presentata a maggio dalla Idra Immobiliare S.p.A., la società del cavaliere proprietaria dell'immobile. Questa commissione è un organismo previsto dalla legge sarda sul piano casa, i cui componenti sono nominati dalla Giunta regionale. regionale, la Giunta Cappellacci, la stessa che ha promosso la legge. Legge che, è bene ricordarlo, è stata varata per attuare l'intesa firmata tra Berlusconi e tutti i governatori regionali. A quanto se ne sa, Berlusconi realizzerà alcuni bungalow a meno di 300 metri dal mare. La legge sarda consente di costruire in quest'area corpi di fabbrica separati da quello principale, come i bungalow, purché senza sopraelevazione e solo nel caso di tipologie edilizie uni o bifamiliari, come Villa Certosa. Il tutto a condizione che questi interventi siano finalizzati al miglioramento della qualità architettonica dell'intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è inserito. Proprio questo è il punto su cui la Commissione ha detto di sì. Cristiano Dell'Oste, GR24, Il Sole 24 Ore. Sei banche tedesche non hanno rivelato tutto negli stress test, lo ha comunicato il CEPS, Comitato Europeo di Supervisione Bancaria, al Financial Times. In particolare, le sei banche non avrebbero rivelato tutti i dettagli sui titoli del debito pubblico sovrano dei paesi europei che detengono. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Le vendite sono aumentate rispetto al corrispondente periodo del 2009 di circa il 15%. Massimo Brunelli è l'amministratore delegato di Mantero Seta, azienda del Comasco, oltre 400 dipendenti, un fatturato superiore ai 70 milioni di euro. Nel 2009 gli affari hanno molto risentito della crisi, un calo di circa il 12-15% a seconda dei settori delle nostre vendite rispetto al 2008. Ingredienti per la ripresa? Abbiamo cercato di ridurre i nostri costi in linea con la riduzione dei nostri volumi di attività e la più importante delle iniziative intraprese è stata quella del ricorso alla cassa integrazione. Siamo riusciti però a risparmiare circa un 15% del nostro costo del lavoro. Per il 2010 Mantero confida nel trend di crescita dei primi sei mesi, dunque con un incremento del 15%. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore. La pagina degli esteri ci porta in Islanda per un'importante novità che riguarda web e libertà d'espressione. Approvata all'unanimità una legge che garantisce uno scudo a chi pubblica su internet documenti segreti ma di pubblico interesse. I blogger che metteranno in rete segreti societari, giudiziari, ma anche militari o di Stato, saranno protetti dai processi e la giustizia islandese non potrà impedirne la divulgazione. L'isola dei vulcani potrebbe dunque diventare il porto franco del giornalismo d'inchiesta mondiale. Afghanistan è la più grande fuga di notizie della storia militare americana, notizie che parlano di civili morti e di cui non si è saputo nulla, di un'unità segreta incaricata di uccidere o fermare qualsiasi talebano anche senza processo, della collaborazione fra i servizi segreti pakistani e i talebani. Questo e molto di più sugli archivi segreti della guerra in Afghanistan è svelato dal portare WikiLeaks alla stampa. Subito è arrivata la dura condanna della Casa Bianca. E restiamo all'estero perché è stato condannato in Cambogia il boia dei Khmer Rossi. Io ero solo un poliziotto e dovevo rispondere agli ordini del mio capo. A 67 anni compiuti, Kangay Eu ripete la sua difesa di sempre, quasi a tessere un filo tra i crimini nazisti giudicati a Norimberga e quelli dei Khmer Rossi al potere in Cambogia tra il 75 e il 79. Compagno Duik per i suoi complici. L'hanno definito l'Eichmann cambogiano, anche se per migliaia delle sue vittime era solo il macellaio di Phnom Penh. Crimini contro l'umanità, omicidio e tortura, 35 anni di carcere, ancora 20 da scontare. Nonostante la sentenza abbia accolto l'impianto dell'accusa, è probabile che il verdetto sia fonte di polemiche da parte dei familiari delle vittime, che speravano in un ergastolo di fatto. Sebbene abbia ammesso le colpe, Duik ha sempre ribadito di non aver avuto altra scelta se non quella di eseguire gli ordini e lo scorso anno ha persino spiazzato la giuria chiedendo di essere assolto. Gigi Donelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Si indaga per omicidio colposo a Duisburg dopo la morte di 19 giovani nella calca della Love Parade. Intanto sono in viaggio per Duisburg i genitori della ragazza di Brescia, unica vittima italiana. L'amica Irina Di Vincenzo, rimasta ferita, ha passato la notte a Milano nella casa che condivideva proprio con Giulia. In giornata tornerà con i genitori nel paese natale Grugliasco, nel torinese. Ed ora la vicenda Balotelli, che sembrerebbe arrivata a conclusione anche se il suo agente fa sapere con il City ancora nessuna firma. Una festa a sorpresa nell'ultima notte milanese prima di partire per gli Stati Uniti insieme all'Inter e da lì attendere l'ufficializzazione del passaggio al Manchester City. Mario Balotelli insieme agli amici di sempre in un locale nel centro della città. Festa a sorpresa organizzata per salutarlo e nella quale il giocatore non ha fatto nulla per nascondere che si trattava di un vero e proprio party d'addio. La festa è stata testimoniata e descritta nei dettagli dalla Gazzetta dello Sport. Una lunga serata in allegria, come regalo un piatto con la scritta «Anche a migliaia di chilometri di distanza sarai sempre nel nostro cuore». Super Mario che si chiude a riccio solo quando viene avvicinato dal giornalista e poi se ne va nel cuore della notte a bordo della sua Ferrari, non prima di essersi informato sulla data della convocazione azzurra di Prandelli. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficializzazione. L'accordo è praticamente fatto, all'Inter vanno 30 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a quota 35, al giocatore 4 milioni netti all'anno. La sua storia nerazzurra è durata 1500 giorni. Mario non ha ancora 20 anni, ma rappresenta ormai il passato. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. Ore decisive per la Roma Calcio. Oggi ci dovrebbe essere l'udienza, quella definitiva, davanti al collegio arbitrale. Si dovranno definire i dettagli dell'accordo fra la famiglia Sensi e Unicredit. La banca creditrice per 325 milioni dovrebbe assumere il controllo dell'azienda di famiglia, la Ital Petroli. La Roma dovrebbe confluire in una nuova società guidata da Rosella Sensi, che ha come unico obiettivo la cessione della squadra. Le indiscrezioni dei giorni scorsi parlavano di un interessamento degli Angelucci, imprenditori della sanità, editori di Libero e del Riformista. Ancora sport e quattrini, qui parliamo di rugby. L'Aquila Rugby, classe 1936, 5 scudetti all'attivo e un futuro molto incerto. Sono il simbolo della città, quei giocatori che nel 2009 interruppero gli allenamenti per scavare a mani nude tra le macerie. E soprattutto Lorenzo Sebastiani, giovane promessa, ucciso dal terremoto. Nel pomeriggio di oggi il consiglio di amministrazione decisivo per trovare sponsor o azionisti che salvino il club, già iscritto al campionato di eccellenza, la massima serie italiana. La squadra non dispone neppure di un campo per allenarsi, ma il dirigente Marco Molina non ha perso le speranze. Ho sentito dei buoni propositi da parte del sindaco, mi auguro che tutto ciò finisca in qualcosa di buono, senz'altro. Qualcosa deve venire fuori, altrimenti la nostra strada è segnata. I giocatori aspettano ancora 4 mesi di stipendio, molti hanno deciso di restare e di guadagnare la metà. Tutti giovani e aquilani guidati dal capitano Maurizio Zaffiri. È chiaro che fare una rosa competitiva in questo momento, quando la maggior parte delle altre società hanno già iniziato la preparazione, sarà veramente difficile. Detto questo, però, io penso che nel caso in cui le cose si risolvano positivamente, il carattere degli aquilani in questo senso non verrà a mancare. In gioco non c'è solo il futuro dell'Aquila, ma un pezzo di storia del rugby italiano. Nicola Accardo, GR24, Il Sole 24 Ore. Continua lo sciopero bianco dei controllori di volo in Grecia. Molti gli italiani bloccati negli aeroporti dai ritardi e che ora chiedono risarcimenti ai tour operator. Al microfono di Anna Marino, Roberto Corbella, presidente ASTOI, Associazione Tour Operator Italiani. La situazione in Grecia, come tutti sappiamo, sta attraversando un periodo difficile, stanno cambiando molte regole nel paese. Questo comporta inevitabilmente anche degli scioperi che si manifestano in questo caso con una logica esclusivamente di sciopero bianco, che vuol dire il rispetto delle regole è rigoroso e quindi però comporta dei rallentamenti in quello che sono le procedure normali che, abbinate ad un periodo di altissima stagione, possono comportare sicuramente dei disagi. Il disagio appunto hanno portato i consumatori anche a, tra virgolette, prendersela con i tour operator. In questo caso i tour operator sono vittime prima di tutto loro, perché non hanno facoltà di modificare delle scelte che sfuggono al loro controllo, ma che addirittura in alcuni casi sfuggono al controllo anche delle compagnie aeree. Quindi non ci sono risarcimenti. Qui c'è una dichiarazione fatta dal ministro del turismo greco già all'inizio della stagione, che ha detto che laddove ci fossero stati dei disservizi le autorità greche si sarebbero rese garanti per attenuare tutti i disagi e per poter rimborsare i passeggeri che avessero avuto dei costi aggiuntivi. Non abbiamo ancora gli elementi, ma ci è stata confermata questa volontà politica di dare assistenza anche concreta, anche materiale, ai passeggeri. Ed è tutto per questo GR24, ci risentiamo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.